Allora, eccoci quando sono le 12:20 e noi all'altro capo del telefono abbiamo un lavoratore di GLS che salutiamo. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti, Maurizio. Ciao Maurizio. Allora, io ti chiederei di ricapitolare un po' la vicenda, insomma, cioè i motivi che... anche se è piuttosto lunga e ingarbugliata, ma insomma, in soldoni si tratta comunque di tentativi di licenziamento, di allontanamento da parte di lavoratori che si sono organizzati e che hanno scioperato, no? Se vuoi faccio la cronistoria io in un attimo. Sì, vai. La riassumo. Allora, noi lavoratori di Castel di Leva, nella maggior parte... diciamo a febbraio avevamo già iniziato una protesta a dicembre, proseguita poi a febbraio per una messa a punto delle buste paga che erano ridicole, trasferte, cose che non esistevano, e chiedevamo di una messa a punto e di un rispetto del contratto nazionale di categoria. E a fronte di questo c'era stata la minaccia di licenziamenti che poi erano rientrati appunto con queste azioni di sciopero che avevamo fatte. Nel frattempo la controparte ha chiesto degli incontri a cui abbiamo ottemperato, e negli incontri si è fatta un attimino il punto della situazione e capire come si poteva venire a capo per l'applicazione del contratto. Ieri sera abbiamo avuto un incontro proprio volto a questa a diramare questa a dimanare questa faccenda. Allora, l'incontro diciamo che è stato né positivo né negativo, è stato una via di mezzo, ossia ci hanno proposto una busta paga questa volta decente, comprensiva di tutte le voci che prevede il contratto nazionale. Manca ancora qualcosa, diciamo che siamo vicini alla soluzione, non troppo ma neanche troppo lontani. Quindi ci sarà mercoledì prossimo un'assemblea in magazzino dove metteremo al corrente tutti i lavoratori di quelle che sono le proposte e quelle che sono le ulteriori richieste per arrivare al quadro conclusivo. E in base a quello che non uscirà fuori incontreremo di nuovo l'azienda e a quel punto faremo il punto della situazione. Ho capito. Penso positivamente perché non ho visto diciamo la voglia di andare allo scontro da parte dell'azienda, quindi penso che ci sarà una soluzione positiva, me lo auguro. Beh, questa certamente. È al momento attuale la situazione. Chiaramente non si dovesse arrivare a una soluzione positiva, ci dovremmo organizzare, ecco. Però credo che forse siamo addirittura all'arrivo, forse, con tanti punti interrogativi, ma forse siamo addirittura all'arrivo. Beh, certamente insomma una grande fiducia va riposta in termini generali nelle capacità di lotta che avete sperimentato nel corso di questi mesi, e questo è un punto da cui non si prescinde. Ma questo certamente, questo va ascritto l'eventuale successo proprio alle capacità di lotta dei lavoratori e di tutti quelli che hanno appoggiato questi lavoratori, che avevano bisogno di mettere a punto un attimino la situazione che non era diventata insostenibile. Ecco. Senti Maurizio, ma a proposito invece dei trasferimenti punitivi e degli allontanamenti che ci sono stati? Tutto rientrato, la battaglia è stata dura ma vincente. Quindi su questo fronte già dei risultati possiamo considerarli ottenuti? Già, questi già sono stati ottenuti, non ci sono stati né trasferimenti né licenziamenti di nessun genere. Perfetto. Questo l'abbiamo già ottenuto con quelle giornate di lotta dure, perché sono state giornate di lotta dure, e l'abbiamo ottenuto. Ora, come dicevo, è da mettere a punto semplicemente il complessivo della busta paga, delle condizioni malattia, straordinarie e quant'altro. Ma io, una mia impressione, la penso positivamente. Io spero che si riesca ad ottenere un accordo definitivo, chiaramente, altrimenti credo che ci sarà qualche altro momento di lotta. Ovvio. Senti Maurizio, in conclusione, ecco, possiamo fare insomma un bilancio, anche se magari parziale, però insomma da quando il SICOBAS, ovviamente sostenuto dalle lotte che ci sono state in giro per l'Italia da parte dei lavoratori, ha avviato queste trattative per l'applicazione di una piattaforma nazionale, per fare in modo che si rispettassero i contratti nazionali, beh, di successi insomma se ne sono potuti raccogliere diversi. Questo... I successi ci sono stati e credo che ci saranno ancora, perché il SICOBAS ha messo in campo delle capacità organizzative molto valide, ha messo in campo poi un sistema di lotta che ha avuto i suoi effetti, un vero sindacato, non un sindacato padronale, un sindacato dei lavoratori, veramente dei lavoratori. Ecco, questo insomma ci dice molto anche sul fatto che talvolta non è tanto, no, come dire, lo strumento organizzativo in sé che evidentemente non è il sistema organizzativo, è il sistema di lotta. Esatto, no, intendevo dire perché le idee che vanno portate avanti e portate avanti con la lotta. Con la lotta si ottiene, senza lottare non si ottiene nulla. Perché quello che volevo ribadire è che questo è, diciamo, un percorso virtuoso all'interno del quale c'è una stretta unanimità di vedute, di organizzazione fattiva tra lavoratori e un sindacato di base. Perfetta. Cioè, noi siamo in perfetta sintonia con il SICOBAS, perché rispecchia in pieno le nostre idee, quelle che sono le nostre idee. I sindacati confederali non rispettano le nostre idee. Noi non sono lo specchio dei lavoratori, sono più lo specchio del padrone. Va bene, allora Maurizio, mercoledì ci sarà questa vostra assemblea interna per divulgare i risultati dell'incontro di ieri e speriamo che tutto vada per il meglio. Tutto va bene, e poi ci risentiamo quando volete. Ci possiamo risentire, io vi tengo aggiornati, aggiornati gli ascoltatori sulla nostra vicenda. D'accordo, un forte saluto e a presto. E buon 1° maggio a tutti. Anche a voi, ciao.